Queste cose, la registrazione che poi vi torna utile, no? Io spero insomma che vi torni utile, perché tante cose poi sfuggono. Però insomma, la pratica dei Brahma Vihara è una pratica antichissima, di radice Mahayana, tibetana, sempre naturalmente parliamo dell'ambito buddista, chiaramente, e ha a che fare, è all'interno di quella grande famiglia che noi conosciamo sotto il nome di Shamatha, giusto? Perché ha a che fare con la pratica di meditazione fondamentale che è l'anapana. L'anapanasati, se vi ricordate, magari non vi ricordate, ma non vi preoccupate, vi rinfresco io. L'anapanasati è quella pratica di base basata sulla respirazione ana e apana, inspiro ed espiro. Sati è la consapevolezza, quindi ana, pana, sati. Anapanasati è il primo uno dei primissimi discorsi che fece il Buddha una volta che raggiunse l'illuminazione sotto l'albero della Bodhi. E disse: questa pratica di base è sufficiente per raggiungere l'illuminazione, cioè inspira ed espira. Forse lui era un po' troppo ottimista, però noi insomma ci affidiamo anche a queste grandi anime che ci danno delle indicazioni. Allora, sulla base dell'anapanasati, quindi pratica di Shamatha, se non ricordate, abbiamo, insomma, penso che bella traduzione vuol dire calmo, dimorare, è quella parte della pratica che noi cominciamo per stare un po' nel corpo, ammorbidirlo attraverso il respiro, sensazioni e corpo. Ciao. Ciao. Bene, siamo appena partiti. Chiudo allora, avevo trovato socchiusa, ragazzi, era un errore. Chiedi. Allora, non sapevi dell'orario forse? No. Alle 8 meno 5 si comincia. Ah, scusate. No, non ti preoccupare, era scritto sulla locandina, partiamo un po' prima perché sono 2 ore di lezione. Ok, va bene. Beh, ma abbiamo fatto rilassamento i primi 10 minuti e quarto, quindi non hai perso nulla dal punto di vista della teoria. Va bene, riprendo. Quindi abbiamo detto, nella grande famiglia dell'anapana c'è Shamatha, questa pratica di pura consapevolezza sul respiro e sul corpo, su questa si innescano queste pratiche che vengono chiamate Brahma Vihara, che sono conosciute in Occidente come pratiche di amorevole gentilezza. Per semplificare, no? L'amorevole gentilezza cosa significa? Che nella pratica noi portiamo una qualità che è una qualità che ammorbidisce, apre la pratica ad una piacevolezza, diciamo così, no? Cercare di essere, di coltivare pace, apertura, in una parola proprio gentilezza amorevole. Come si configura questa pratica? Allora, quando l'hanno ideata i maestri, hanno pensato a come poteva essere portare l'amore e le sue sfumature nella pratica di meditazione. La pratica di mindfulness fine a se stessa, come ho avuto modo anche di spiegarvi nel corso precedente, è una pratica che, se non coltivata assieme a una certa gentilezza, potrebbe, non è detto, potrebbe condurre ad un po' di irrigidimento della mente e potrebbe farci scivolare piano piano nel tempo in una modalità di meditazione un po' cristallizzata, un po' in cui si porta un po' di tensione. Perché? Perché la mente è sempre molto agitata. E noi è facile che nella pratica scivoliamo nella nostra normale abitudine, cioè che è quella di concentrarsi attraverso uno sforzo. Fino a qua? Tutto chiaro. Cioè c'è uno sforzo per mantenere la mente ferma sull'oggetto di meditazione. Allora, non è sbagliato, abbiamo detto che c'è un po' di sforzo iniziale e poi la mente si placa, si focalizza, ma nel tempo è facile che noi la prendiamo come un'abitudine e quindi diventa, la mente si indurisce. Questo portare la gentilezza in qualche maniera ammorbidisce un po' la nostra pratica. Ma i Brahmavihara sono molto di più, perché Brahma Vihara vuol dire Brahma è divino, è la parte divina, diciamo così, e quindi è non misurabile, incommensurabile. E Vihara è in qualche maniera dimora, cioè, insomma, dimore o case o luoghi incommensurabili. Quindi si coltivano delle pratiche, attraverso queste pratiche, delle sfumature dell'amore che per loro natura possono essere infinite. Cioè si dice sempre che quando noi coltiviamo una di queste qualità, la possiamo donare agli altri e possiamo donarne quanta vogliamo perché non ne rimaniamo senza. Non è come un oggetto. Io se ti do questo libro, tu ce l'hai, io non ce l'ho più. Nella pratica dell'amorevole gentilezza invece più ne doni e più ne viene fuori, cioè cresce invece che calare. Quindi quando io dono pace, serenità, amore, sorrisi alle persone, anche attraverso la pratica, questo non fa altro che decuplicare l'amorevole gentilezza che c'è tra di noi, giusto? Sì. No, non sempre che mi do ragione, nel senso che lo sappiamo tutti, insomma, quando siamo in queste situazioni, in queste condizioni, diventa contagioso, no? Quindi se uno è per sua natura felice e riesce a coinvolgervi, non è che la sua gentilezza, che la sua felicità cala, cresce anche la vostra, ma la sua rimane comunque alta, anzi in due felici e contenti magari sentite che la felicità cresce sempre di più, no? Purtroppo vale anche per le emozioni negative o distruttive, lo sappiamo, ma noi siamo qui per coltivare le antagoniste. Allora, le dimore incommensurabili sono quattro, perché i maestri individuarono quattro sfumature dell'amore, così come viene indicato nei testi. La prima è proprio l'amorevole gentilezza, metta. Metta è semplicemente essere gentili con se stessi e con gli altri attraverso una pratica, delle pratiche che poi vi spiegherò. Sono strutturate tutte nello stesso modo, ma hanno delle sfumature diverse. La seconda, il secondo Brahma Vihara è Karuna. Karuna, con la K, è la gentilezza, la compassione, la gentilezza amorevole, quindi diventa compassione verso la sofferenza altrui. Quindi si rivolge alla sofferenza altrui. La terza sfumatura, il terzo Brahmavihara è mudita. Mudita è la gioia compartecipe. Cioè coltivare in noi la gioia per la gioia di un altro. Cioè quando un'altra persona è gioiosa e felice, noi siamo gioiosi e felici con lei. Ok? Ultima, ma non ultima, anzi viene di solito tradizionalmente portata alla base di tutte le altre tre, è Upekkha. Upekkha è l'equanimità, di cui un pochino vi ho accennato. È una parola magari un po' difficile, che non si sente molto, ma diciamo che in soldoni è come coltivare la saggezza. Che cos'è la saggezza? Sapreste dare una definizione di saggezza? È una forma di equilibrio. È una forma di equilibrio, sì, quindi il saggio com'è rispetto alle esperienze della vita? Non si lascia influenzare. È equidistante, cioè in qualche modo è in grado di rimanere centrato e in armonia in ogni situazione della vita. Capite bene che questa centratura, armonia, bilanciamento, equidistanza dalle vicende della vita non è una cosa così semplice da coltivare e nemmeno da raggiungere. Difatti, normalmente i saggi non sono molti, ok? Li vediamo. Scarseggiano, diciamo, scarseggiano, giustamente anche, giustamente, perché non è una qualità così facile da raggiungere, diciamo, da coltivare, da esperire, anche perché l'uomo saggio, come abbiamo detto, è in grado di rimanere in equilibrio qualsiasi sia la situazione che si trova di fronte. Questa base di solito viene insegnata per prima, ma noi la sposteremo in fondo. Di solito in Occidente viene insegnata per prima, nella forma tradizionale dei Brahmavihara Upekkha rimane comunque la quarta qualità, anche se è una qualità cardine sulla quale le altre si innescano. Ma essendo un laboratorio possiamo benissimo portarla all'ultima giornata, perché l'ultima, fra l'altro, ci permetterà di approfondire molto un unico Brahmavihara, che è quello più complesso. Noi partiremo da metta, che è quella più in qualche maniera diretta, quella che probabilmente ci aiuterà a entrare in queste pratiche più facilmente. Infatti, questa forse è una battuta che vi ho già fatto, il Dalai Lama, stimolato sulla quale fosse la religione che professava, e gli non ha detto il buddismo o il buddismo tibetano, ha detto la mia religione è l'amorevole gentilezza, che è tanta roba, insomma, perché ora vi spiego come sono. Entriamo un po' nel tecnico. È chiaro questo cappello introduttivo? Sì, immagino di sì, nel senso che questo è sostanzialmente quello che sono i quattro Brahmavihara, che si rivolgono di volta in volta ad una forma diversa di situazione, tipo la compassione verso l'altrui sofferenza è diversa dalla gioia compartecipe verso l'altrui gioia. Capite che lo stato d'animo è molto differente, no? Bene. Come si praticano i Brahmavihara? Questione un po' più tecnica. Allora, i Brahmavihara si praticano durante una seduta di meditazione normale, quelle che facciamo sempre noi, quindi una seduta che è una seduta di anapana, di shamatha, cioè cerchiamo centratura ed armonia nel corpo attraverso il respiro e le sensazioni, quello che abbiamo fatto insieme, ma su questo inneschiamo delle frasi. Sono delle frasi che cerchiamo di sentire nel cuore, quale è l'effetto che fanno, come ci sentiamo mentalmente, non le diciamo ad alta voce, a mentalmente a dire queste frasi, che cosa provocano in noi, come ci si sente attraverso queste frasi. Una delle frasi tipiche, ad esempio, di metta, perché naturalmente a seconda del Brahmavihara che pratichiamo ci saranno delle frasi diverse, anche se l'amorevole gentilezza di per sé le prevede tutte, e metta, essendo la pratica principe, le prevede un po' tutte, ma quando faremo gli altri Brahmavihara saremo più mirati per evocare quella qualità della nostra anima, del nostro cuore, per vedere in che condizioni è. Che cosa vuol dire in che condizioni è la qualità del cuore? Vi faccio un esempio, che non so se ho già fatto a voi, ma lo rifaccio. Prendo quasi sempre a esempio la gioia compartecipe, mudita, perché è quella più sottovalutata, ma nel contempo è quella che fa emergere immediatamente una situazione. Immaginate di avere incontrato nella vostra vita una persona che vi ha ferito, che vi ha fatto del male. Ce l'avete in mente? Una, ne avete una? Ok, bene. Quella persona che, insomma, quando ha incrociato la strada della vostra vita per una serie di motivi vi ha fatto soffrire, qualsiasi sia la sofferenza, non è importante, venite a sapere che ha raggiunto un grande obiettivo, tipo, non so, mi è nato un figlio, suo figlio ha raggiunto la laurea, oppure lui ha avuto una grande promozione o ha vinto la lotteria, insomma, una cosa che lo rende felice, ricco, ecco, una cosa del genere. Se provate gioia compartecipe per questa persona? Sì. Come? Allora, questo ci dà un po' il polso di cosa significa coltivare una qualità del cuore. In questo caso, io ho fatto un caso estremo, poi vedremo perché è estremo, ma è chiaro che dentro di noi, molto tranquillamente, sorge tutt'altro stato d'animo che quello di dire io gioisco per questa persona. Può sorgere invece uno stato d'animo completamente diverso, che viene chiamato il nemico lontano di Brahma Vihara. In questo caso è l'odio o l'invidia, ok? Ci siamo? Il nemico lontano è in contrapposizione a ciò che dovremmo provare, dovremmo, e anche dovremo, cioè uso sia il condizionale che il futuro, nel senso che cosa ci dice cosa ci dice la teoria dei Brahma Vihara, cosa ci dicono i testi sacri? Che questa qualità, se in questo senso non la sentiamo, ma ne sentiamo il nemico lontano, non è che siamo brutti, cattivi e finiremo all'inferno, non c'entra niente questo. C'è semplicemente una grande distanza tra la mia apertura di cuore e quella che dovrebbe essere per essere in armonia col tutto. Ok? Qualcuno potrebbe dire, no, no, ma io non sento niente, a me non me ne frega niente, ho messo il cuore in pace. Spesso, no, ci sono queste cose. Indagando, nel caso vostro, insomma, ognuno poi nella sua cameretta, come sempre, rifletta. Indagando, magari è finito nell'inconscio. Oppure non ho voluto incrociare questa cosa. Oppure devo dimenticarmi per andare avanti nella vita, non posso soffermarmi lì perché quella ferita si apre ancora e io non voglio più saperne di quella sofferenza. Tutto plausibile, ma siamo qui anche perché questo fa parte di un percorso di trasformazione, come vi ho detto tante volte, e questo percorso di trasformazione significa prendersi per mano e avvicinarsi a queste parti un po' sofferenti e con i Brahma Vihara attenuarle e aprire il cuore verso di esse con cautela, con cautela. Infatti i Brahma Vihara innanzitutto si praticano verso se stessi. Prima persona a cui si dedicano le frasi siamo noi, e questo per un motivo estremamente semplice, molto intuibile: se non sono in equilibrio io, in armonia io, non posso portare armonia. È una roba abbastanza semplice, no? Nel senso che prima raggiungo io un certo equilibrio e poi posso portare equilibrio, posso portare armonia. Se ho il cuore aperto, se mi sento in pace, porto pace. Sembra una stupidaggine, no, sto qua. Però non lo sono così tanto, perché molto spesso noi ci mostriamo con una o più maschere per il quieto vivere, per mille motivi. E questo non va male, dal punto di vista sociale va bene, insomma, dobbiamo sostenere, tenere un po' in piedi questa situazione e va bene. perché sennò probabilmente gireremo col Kalashnikov, con dei mitra, con delle scimitarre, e chiaro, diventerebbe un casino. Allora va bene assumere tutta una serie di maschere per il quieto vivere, ma ciò che io vi chiedo, che il lavoro che si fa quando si entra in questo tipo di percorsi, è con noi no, con noi no, con noi cerchiamo di togliere tutte, pian pianino, perché potremmo scoprire cose che non ci piacciono, ma l'ideale è toglierle tutte. E quindi, passo successivo, i Brahma Vihara vengono paragonati a una sorta di cartina di tornasole. Sapete che cos'è la cartina di tornasole? Ne avete mai sentito parlare? Come? Sì, sì. Si usa anche per vedere il pH della... Sì, sì, è proprio quella. La immergo in una sostanza e quando la tiro fuori, quella cartina si è colorata della sostanza in cui noi, del colore relativo alla sostanza in cui l'ho immersa, cioè mi dice la verità. Quindi io, quando pratico il Brahma Vihara e utilizzo di base la sincerità verso me stesso, sorgerà automaticamente il mio vero stato d'animo, non quello che racconto agli altri. Ok? Vi faccio degli esempi, perché con gli esempi forse si chiarisce di più. Allora, rimaniamo sempre sull'esempio di Mudita. Tanto ormai quella porta l'abbiamo aperta e la persona con cui avete avuto problemi ce l'avete in mente. Nel momento in cui io, e la faccio su due piani, faccio prima verso me stesso e poi verso l'altro, prima verso l'altro e poi verso me stesso. Allora, sto praticando mudita, quindi dirò nella mia pratica meditativa, ad un certo punto della pratica, quindi quando sarò svuotato, tranquillo, focalizzato, perché se le dico così queste frasi rimangono a livello cognitivo, a livello cognitivo non fanno niente, devo proprio sentirle, quindi devo raggiungere uno stato in cui queste frasi le sento proprio dentro e dirò: possa tu, a questa persona che mi ha fatto stare male, possa tu essere felice. Allora, nel momento in cui pronuncerò possa tu essere felice mentalmente, che cosa sorgerà in me? Una reazione potente, no? Una reazione che sarà un no, sarà un ma neanche per niente. Ci sarà una parte di me che fa sorgere quell'emozione negativa distruttiva. È come se l'avessi snidata. Ho immerso la cartina di tornasole ed è uscita quella. Non quello che penso io. No, scusate, non quello che racconto agli altri, perché spesso quando gli altri mi chiedono: ma allora con Tizio come va? Ah, tutto bene, guarda, io sono uno che passa sopra le cose, non me ne frega niente, guarda, la mia vita continua, va tutto bene. Come? No, ho capito, sto facendo l'esempio estremo. Non posso farvi gli esempi quelli sulle sottigliezze, animarsi le vie, perché non capiremo. Sto facendo gli esempi estremi perché so che dentro di voi si muovono le emozioni estreme e così ci capiamo. Facciamo adesso, quindi abbiamo capito, questo esempio qua è molto chiaro. Non dobbiamo diventare dei monaci o dei Salomoni, dei super saggi, non è questo. A me interessa che capiamo che per essere in armonia col tutto la strada è lunga. Uno può anche dire: ma a me non me ne frega niente di questa strada qua, anzi, anche fra 50 anni quando lo trovo io lo riempio di botte. Ma ricordate che tutto questo finisce nell'inconscio. L'inconscio ti dirige, e dove ti dirige? A trovare un'altra esperienza simile a quella, perché l'universo, soprattutto nei piani sottili, che sono i piani, quelli, diciamo così, che vengono chiamati spirituali, cerca un suo equilibrio. E laddove vi è disequilibrio, lo cerca. E come fa? La parte inconscia ti porta a rivivere un'esperienza simile. Quindi conviene lavorare prima, ok? Boh. Allora, e qua vi ho già messo i semi per il modulo dopo. No, portate pazienza. Torniamo a noi. Facciamolo ad esempio verso noi stessi, no? Ci sono molte persone che quando si mettono lì dicono: possa io essere felice, possa io vivere la gioia. Che cosa sentite quando dite questa frase? Sentite dire da me, provate a sentirla voi, no? Possa io vivere la gioia, essere felice. Che cosa vuol dire? Come? Sollievo. Sollievo. Poi? Poco convinta. Poi? Speranza. Dubbio? Dubbio. Certo, certo. Io penso un giorno sì e l'altro no. No. Non sempre si può. Certo, certo, certo. Questo un giorno sì e un giorno no, potremmo anche dire che è perché non c'è completa saggezza, completa equidistanza, altrimenti ogni giorno, ogni minuto della nostra vita saremmo in perfetto equilibrio col tutto. Ma questo non vuol dire che siamo sbagliati, torno a dire, c'è semplicemente un lavoro da fare. E i Brahmaviana ci dicono qual è il lavoro da fare. Allora, qualcuno potrebbe anche dire, ma se io dico possa io essere felice, innanzitutto è il come lo dico. Non è una frase assertiva e obbligatoria. Devi essere felice. Il pensiero positivo ha fatto dei danni incredibili. No, la formulazione di queste frasi non è a caso. È stata formulata in maniera precisa che io possa essere felice. O possa io essere felice. Cosa vuol dire? Che non posso gestire l'universo. Se devo passare attraverso la sofferenza, ci passerò. Ma il mio augurio è che io possa essere felice. Che cosa potrebbe sorgere anche? E sorge ogni tanto, potrebbe anche sorgere un non me lo merito. Non qui magari, perché qui siamo tutti un po' tranquilli, ma magari qualcuno dice no, non me lo merito. Mi sorge un senso di colpa magari. No, come faccio a essere felice io? Tutti gli altri bambini del mondo stanno morendo di fame. Mi sento in colpa a essere felice, no? Ci sono quelli sotto le bombe a Gaza, mi sento in colpa a essere felice. Sono tutte cose che nascono dalla mente e sulle quali vi prego di riflettere. Quello che stiamo facendo è, come sempre, trovare un equilibrio interiore per poi portare equilibrio fuori. Allora, siamo già nel kernel, nel nucleo della situazione. Allora, questa pratica quindi si fa in questo modo. Si rivolge innanzitutto verso se stessi e lo si fa per un lungo periodo. Quindi io vi darò le basi in queste tre lezioni, ma lo si fa a lungo verso se stessi. Una volta fatto verso se stessi, si comincia ad esplorare il fuori. Cosa vuol dire esplorare il fuori? Che con cautela si comincia a rivolgere il Brahmaviana specifico, quindi stiamo parlando di metta adesso, lasciamo perdere il mudita, di metta vuol dire possa io essere in pace, possa io essere sereno, possa io essere in salute, lontano dai pericoli, ok? Un augurio che mi faccio. Quando mi sento abbastanza carrozzato, lo faccio verso il fuori, verso qui. Prima di tutto lo faccio verso una persona che potrei definire, perché non tutti di noi ce l'hanno, il nostro maestro spirituale. Diciamo che non sempre c'è un maestro spirituale nella vita di qualcuno di noi, non confondetelo con un insegnante di religione, sono due figure totalmente diverse, quindi si vuole un maestro perché c'è un rapporto maestro-discepolo. Ma se non lo si ha, lo si può rivolgere verso un benefattore, cioè qualcuno che nella nostra vita ci ha aiutato, ci ha fatto star bene, ci ha tolto dai guai e che in qualche maniera ci ha messo nella giusta condizione, ci ha risollevato da un momento di sofferenza. Quello viene considerato il benefattore. Poi ci si rivolge a un amico, una persona cara. Queste due, benefattore e persona cara, se ne può fare una delle due. Non occorre più che due. Poi ci si rivolge ad una persona indifferente. Cosa vuol dire persona indifferente? Una persona che vedo, magari anche tutti i giorni, ma che, con quale non ho rapporti. Tipo, vado a bere il caffè, sempre il cappuccino, quello che è, sempre nello stesso bar, tutte le mattine, se qualcuno di voi lo fa, o qua c'è qualcuno, negozio dove vado a fare la spesa, di là a una persona che conosco o non conosco, buongiorno, buonasera, rivolgo il Brahma Vihara verso questa persona. Ultima persona è la persona difficile, cioè, abbiamo detto prima, la persona con cui ho avuto un rapporto difficile, che mi ha prodotto sofferenza, con la quale ho avuto degli screzi, che mi ha prodotto dolore, insomma, che ho incrociato nella mia esistenza e che mi ha fatto stare male. Per ultima, di solito quanto tempo? Di solito si fa un mese verso se stessi, un mese verso il benefattore, un mese verso la persona indifferente, un mese verso la persona difficile. E poi l'altro Brahma Vihara, un mese verso se stessi. Per quattro Brahma Vihara, ok? Sono 16 mesi, non sono pochi. Non è obbligatorio, nessuno vi verrà mai a dire nulla, farete che solo esperimenti di prova, vi trovate bene con un Brahma Vihara, gli altri li dimenticate. Fate quello che volete. Ora sulla parte teorica vi devo dire dare tutto il quadro. L'ideale sarebbe ancora più lungo. Perché? Perché ci sarebbe il maestro, il benefattore, la persona amica, la persona indifferente, il nemico e tutti gli esseri senzienti. Ok? Questa sarebbe la pratica completa da fare per mesi ognuna. Quindi vai avanti anni, potenzialmente. Ma chiaramente siamo in un laboratorio e dobbiamo capire anche quali sono le nostre intenzioni. Però questa è un po' la raggiera, come si fa, come dovrebbe essere fatto. Partendo sempre da se stessi. E fino a quando non sentiamo armonia, di solito in un mese si riesce a sentire armonia, soprattutto una persona che ha un po' di pratica alle spalle. Perché chiedo che ci sia una pratica alle spalle? Perché semplicemente se comincio a dire possa io essere felice e sorge l'avversione, una voce che mi dice no, non te lo meriti, che cosa facciamo? O prima, cosa facciamo quando sorge un'emozione? Osserviamo. Rimaniamo in osservazione e piano piano accogliamo e lasciamo andare. Vedete, queste cose qui le abbiamo apprese nei due mesi precedenti. Capite anche che queste cose hanno bisogno di tempi, altro che la meditazione al fine settimana, sei in un posto. No, perché già in due mesi di pratica, o la pratica che avete, capite che prima che si stabilizzi ci vorrà un sacco di tempo, un bel po' di tempo, non un sacco. Però questa pratica posso cominciare già da subito a introdurla, soprattutto se mi sento bene. Quindi se è nella pratica di meditazione di questa settimana, allora le faremo. Faremo insieme le pratiche per capire bene come ci sentiamo. Se dicendo possa io essere in pace, possa io essere lontano dai pericoli, mi sento bene, è già da subito un plus, perché la pratica mi mette in una certa condizione. Bene. Sì, mamma mia. E si possono mescolare? Cioè io faccio la meditazione e penso che io possa servire. E se nella stessa giornata vedo la persona che mi ha portato sofferenza, posso almeno pensare che tu possa essere. Si può mescolare. Assolutamente. Assolutamente. Però diciamo che per questo primo periodo, per non fare confusione, rimaniamo su un unico Brahma Vihara. Poi quando avremo preso un po' di dimestichezza, allora sorgerà spontaneamente che, non so, vedo una persona sofferente e utilizzo Karuna. Cioè, Karuna cosa dice? Porto la gentilezza amorevole, la mia parte calda di cuore la porto nella sofferenza altrui. Quindi, se ho un amico, una persona cara che sta male, Posso anche dirgli nella mia meditazione: possa tu essere lontano da ogni sofferenza, possa tu essere in salute, capite? Frasi di questo tipo che in me aprono il cuore, ok? Ecco, questo modo dopo lo possiamo anche mescolare, sorgerà spontaneo. Se vedo una persona sofferente, quasi spontaneamente, non occorre neanche che impari Brahma Vihara, quasi spontaneamente mi viene a dirgli: spero che tu stia meglio, no? Che è questa, ma è lo spero, non voglio che tu stia meglio, perché non ho in mano le carte per poterti far star meglio. La difficoltà è: possa su stare bene con una persona indifferente, ad esempio. Vieni a sapere che il famoso barista che mi dà il caffè sta poco bene, e magari in cuor tuo dici: beh, possa tu stare in salute, ritrovare la salute, no? Magari lo fai con un certo trasporto, però magari poi arriva una persona difficile che invece che aver raggiunto un grande risultato, magari si è rotta una gamba in macchina, in moto. Allora tu gli dici dentro di te: possa tu essere in salute e guarire presto, o ti viene voglia di dire: speriamo che te ne spacchi in cacca altro. Abbiamo detto: non ci autogiudichiamo, ma riflettiamo solo sulla distanza che c'è tra quello stato d'animo, che potremmo anche dire: ma è irraggiungibile se mai ci mettiamo a lavorare questo luogo. Allora sì, è irraggiungibile, non lo raggiungeremo mai. O potremmo anche dire: ma a me non me ne frega niente di raggiungerlo, voglio rimanere nel mio odio. Va benissimo, le scelte da adulti sono assolutamente libere. Siamo consapevoli anche del fatto che covare odio dentro di sé plasma la nostra psiche in un certo modo. Sono scelte, ok? E vi lascio pensare a quale modo. Altro tassello, come vi dicevo stasera, cerco di mettere dentro un po' tutto. Migliaia di anni di teoria buddista, portate pazienza, ma devo far funzionare le rotelle. Allora, ogni Brahma Vihara, quindi ogni qualità del cuore, un po' l'ho accennato prima con il sorgere dell'odio o dell'invidia nei confronti della gioia compartecipe, ha uno stato. È come vivere quello stato, è come stare nel filo del rasoio. Perché? Perché in quel filo del rasoio stare in equilibrio, soprattutto inizialmente, ci può portare a cadere da una parte o dall'altra. Cadere da una parte significa che quella Brahma Vihara assume le sembianze di una qualità molto simile ma priva di cuore, e viene chiamato nemico vicino. O altrimenti può scaturire una qualità completamente contrapposta, che è proprio l'opposto del Brahma Vihara, che è il nemico lontano. Ok? Per non sbagliare, mi aiuto con una cosa, perché viene, guardate, nei testi viene riportato in mille modi diversi, quindi vediamo se qua mi dà una mano. Allora, quale sarà, se lo leggete va bene lo stesso, non vi faccio la domanda, allora lo dico, né in metta, perché se vi faccio la domanda invece che arrivarci con la vostra testa leggete, leggo io. No, ma va benissimo, non è che... E metta, abbiamo detto che è la gentilezza amorevole. Bene, la gentilezza amorevole, quale sarà il nemico vicino che assomiglia alla gentilezza amorevole? Cioè, provate a pensare: possa io essere a qualcuno, no? Possa tu essere in pace, e invece viene camuffata, no? Non è proprio, non c'è il cuore dietro. Come potremmo definirla? Come potremmo chiamarla? È una sorta di falsità. Qui, come metta, mette l'attaccamento o il desiderio. perché mette l'attaccamento, il desiderio? Perché non è una spassionata, un augurio spassionato che effettivamente ci sia pace e serenità in questa persona, ma c'è un attaccamento perché magari potrebbe essere: io spero che tu stia bene perché mi devi mantenere. Ok? Sì, queste dinamiche ci sono, non è che sto raccontando. Io spero che tu vada bene a scuola. Come? Ma non più di me. Ma non più di me, ecco, sì. Io spero che tu vada bene a scuola, rivolto ad un figlio, perché così posso vantarmi con gli amici. Io spero così. No, possa tu essere in salute, proprio come dicevo prima, perché se no a Natale non mi arrivano i regali. Okay. Cioè, è molto diverso dall'amore in quanto tale. È un'energia assolutamente spassionata, priva di alcun attaccamento. Ecco perché è così difficile, ad esempio, farlo con una persona indifferente. Di solito quando si fa questa roba con le persone indifferenti, a me è capitato, i primi anni che facevo con la Mariana, anni, mi è capitato che semplicemente mi sorgeva il torpore, insomma, la distrazione. Perché? Perché non c'è questa, non c'è un canale, devi aprirlo questo canale. E quindi capite, quando noi immergiamo quella famosa catena di tornasole, avvertiamo se siamo in centratura, in armonia, ci ascoltiamo bene, avvertiamo che quel possa tu essere in pace non è spassionato, ma c'è un attaccamento. E se c'è l'attaccamento, lavoriamo sull'attaccamento. Abbiamo imparato, si osserva quella parte di noi, si accoglie, si lascia andare, non la si giudica. Questo è un acceleratore, in qualche modo è vero che i brahmavihara sono un acceleratore, perché se no la nostra pratica meditativa quotidiana è stare sul respiro, tutto bene. Se invece inseriamo queste, se c'è armonia e pace, il cuore si apre. Se invece si innescano queste emozioni, semplicemente si svelano e noi ci lavoriamo. Domanda? Ah, non pareva che... No, non è chiara l'ultima cosa, l'ultima cosa che hai detto. Non ti è chiara? Sì, no, questa ultima affermazione che hai fatto, cioè non l'ho ben digerita dentro di me, ma non perché ho sentito un'emozione, mi ha disorientata, non ho capita bene. Ma cosa ti ha disorientata? Quella che dicevi adesso, perché se l'ultima considerazione che hai fatto, Cioè, provo a cambiare parole, ma... Allora, semplicemente, se... Proviamo a dirla così. Praticando, proviamo sempre con metta. Nel momento in cui auguro pace a qualcuno, o c'è in me la totale spassionatezza, o sorge un attaccamento. Se sorge l'attaccamento, quello è il nemico vicino. Non sono nella più totale equilibrio armonia. Sto semplicemente coltivando un attaccamento. Direi più sintetico di così. Scusa, sì. L'indifferenza che tu percepisci, tipo dire ti auguro che tu sia in pace, sì, ti auguro che tu possa essere felice, sì, ma una persona indifferente, certo, e non la senti, certo, fa parte delle nostre modalità reattive rispetto a un'esperienza. Nella tradizione buddista, ma dappertutto, viene detto che le reazioni alle esperienze sono di tre nature: o si sorge l'attaccamento, o sorge la repulsione, o è indifferente. Come vedete, siamo su questi tre basi qua. Fanno sorgere queste tre modalità. Se io lo dico a una persona con cui ho un attaccamento, e l'attaccamento ha sempre a che fare con una forma di possesso, io non gli auguro pace e salute perché effettivamente io spassionatamente desidero che sia in pace e in salute, ma perché in me c'è attaccamento. Oppure quando lo dico a una persona difficile, possa tu essere in pace, sorge la repulsione. Quindi anche in questo caso c'è un'emozione negativa, distruttiva che sorge, e su quella lavoro. Così come l'indifferenza. L'indifferenza è perché? Perché non lo conosco, non ho a che fare con lui, non me ne frega niente. Ma se io ti dicessi è un'anima in cammino quanto lo sei tu, potrebbe questo muovere un po' verso un Brahmavihara invece che indifferente di una qualità un po' più calda? Forse sì, forse no. Però su questa base. Quindi nemico vicino, nemico lontano, sorgono nel momento in cui dico la pratica, faccio la pratica. Non c'è autogiudizio, se no cadiamo nelle solite cose. Non c'è giudizio né autogiudizio. Semplicemente siamo qui per ascoltare quello che arriva, ok? Dalla pratica meditativa. Vado via spedito perché la prima ora ce la siamo già giocata. Allora, Karuna, quale sarà il nemico lontano? Karuna è... la compassione verso l'altrui sofferenza. Provate a pensare sempre alla persona che vi ha fatto stare male, invece che la compassione, cioè un sincero desiderio che quel dolore non ci sia più, la sofferenza che sta passando non ci sia più. Compatere, no? Essere addolorati assieme. Cosa sorge come nemico lontano? Quindi quello con proprio contrapposto. Cosa c'è di contrapposizione? Cos'è il contrario di sentire lo stesso dolore dell'altra persona? Gioire. Gioire, ma ha a che fare con questa gioia, come potremmo chiamarla? Non è gioia pura, no? No. No. Vendetta. Crudeltà. Essere crudeli, no? Sta bene. È crudeltà o anche violenza, mentre il nemico vicino è l'avversione o il cinismo, una forma di cinismo. Cioè, avete presente, viene chiamata avversione, ma vi faccio ma sta meglio secondo me una forma di cinismo, non è proprio cinismo. Vi faccio un esempio. Avete presente le persone che vengono a sapere che qualcuno sta male e gli dicono: Madonna, com'è che mi dispiace, guarda, mi spero che ti stai meglio presto. Capite tutti gli argomenti? Sì. Io spero proprio che tu stia meglio quanto prima. Questo è l'atteggiamento, no? È compassione questa? Cioè è trasporto verso l'altrui sofferenza? No. Diciamo che è questa smanceria, questo insomma camuffare che ha a che fare con una sorta di cinismo, dentro si è freddi e si assume una maschera di circostanza. Mudita, gioia con partecipe, me ne dico lontano. Quando muore uno, no? Come? Quando muore una persona, sì? Che dicono condoglianze. Condoglianze? Beh, dipende. Sì, no. Come facciamo a sapere cosa sente la persona? Ok, ma è la stessa cosa di quello che dicevi. Certo. Come facciamo a sentire che una persona che dice guarda vorrei che tu stessi bene, certo, prova una cosa contraria? Noi non siamo in grado di... Ma noi non dobbiamo sentire gli altri, dobbiamo sentire noi stessi? Sì. Ma voglio dire, tu adesso hai detto quando una dice questo, in certo, genere, certo, è un modo di dire. Sì, un modo di dire. Che ha una base di falsità. Possiamo sapere che è falsa? Dentro di noi sì. Dentro di noi sì. Cioè dentro di noi, cioè noi lo sentiamo se in quel momento siamo falsi noi. Sì. Ma tu hai sapere di un altro? No, esatto, noi non sappiamo. Che cosa può, ma che te frega dell'altro? È il teatro. Ma non importa nulla dell'altro. Non sappiamo, non sapremo mai qual è l'entità che muove un'altra persona. Non la conosciamo. Se non conosciamo perfettamente noi stessi, non sapremo mai cosa muovono gli altri, come lo muovono gli altri. Non è utile, perché non è un giudizio. Non volevo dire questo, ma chiudo qua, non volevo dire. Ah no, allora cosa volevi dire? Volevo dire un'altra cosa, lasciamo perdere. Ah, Ah, se hai voglia di dirlo, dillo. No, va bene. Ok, benissimo. Allora, nel caso di mudita, abbiamo visto che con la persona che è in qualche modo nemica, muove l'odio, abbiamo detto, no? O l'invidia. Invidia e odio si muovono proprio perché in quel momento sto dirigendo a questa persona la mia gioia compartecipe, ma in me sorge l'odio. Scusate. Mentre il nemico vicino è questa sorta di smanceria, che contento che sono per te, assomiglia un po' a quella di prima, ma è questa falsa gioia nel sapere che questa persona sta bene, ha avuto le sue gratitudini della vita, i suoi obiettivi, e semplicemente noi sentiamo che gli diciamo sono molto contento per te, ma dentro di noi invece cova un'emozione di tutt'altra natura. E questo qui nel mico vicino sono quelle forte di smancerie, di strana eccitazione che però è priva di cuore. Abbiamo detto che tutti i nemici, i vicini e lontani, sono privi di cuore. Upekkha, la più difficile, un po' più complessa, però insomma vediamola. Abbiamo detto che Upekkha è l'equanimità, questo perfetto equilibrio, questa perfetta capacità di essere in totale armonia con le esperienze che ci produce la vita. Il nemico lontano sarà invece la reattività, quindi qualsiasi cosa mi arriva dalla vita, io semplicemente sono in reazione costante, che sia una reazione positiva o che sia una reazione negativa, è squilibrata rispetto a questo equilibrio di cui abbiamo parlato. Il nemico vicino invece è proprio l'indifferenza, cioè essere indifferenti. Il grande problema della saggezza mal coltivata è proprio che diventa indifferenza. Se siamo nell'indifferenza avvertiamo freddezza, cioè le cose che capitano non ci toccano più. Difatti si dice che l'uomo perfettamente saggio e il totale indifferente, il totale cinico nei confronti della vita, sono molto molto simili. Ad un occhio esterno sembrano due persone identiche, sembrano, ma perché l'occhio esterno ci restituisce solo la forma. E difatti la diciamo così, la parvenza dell'uomo saggio è a volte proprio questa parvenza di assoluto cinismo, e invece c'è enorme partecipazione perché c'è questa comprensione di un totale equilibrio nel mondo. Bene, ultimo tassello, poi partiamo perché vorrei fare anche un po' di feedback. L'ultimo tassello, che è un tassello che riguarda le qualità coltivate, ma soprattutto che cosa viene neutralizzato nel tempo. Io qua ho trovato neutralizza, ma non mi piace tantissimo. Diciamo che nel tempo tende a sciogliere e tende ad attenuare molto. Neutralizza è proprio la meta finale, cioè bisogna proprio arrivare in fondo alla pratica, ma diciamo che nel tempo attenua delle qualità negative. Beh, l'anapanasati, quindi la base, diciamo, no? La meditazione radice da cui nascono poi queste pratiche, tende a neutralizzare la distrazione, chiaramente. Cioè, è logico. Quello che comporta fare questo tipo di pratica, quello che abbiamo fatto assieme, è che piano piano la nostra mente si calma, si focalizza, si apre. Abbiamo detto che quindi è uno stare in equilibrio. L'amorevole gentilezza o metta bhavana, troverete il termine bhavana, bhavana vuol dire pratica meditativa sostanzialmente. Sviluppa chiaramente l'amore per la gentilezza, ma tende ad attenuare l'odio e l'attaccamento sentimentale. Karuna, la compassione, quindi la compassione verso la sofferenza altrui, Karuna Bhavana, tende ad attenuare l'orgoglio, la crudeltà, la passione e anche l'ansia. L'ansia perché il coltivare la compassione verso l'altrui sofferenza ci porta ad una maggiore comprensione della vita e quindi ad essere meno ansiosi, perché più in equilibrio noi rispetto a quello che capita fuori di noi, se siamo in grado di coltivarla in maniera pura. Mudita tende a, cioè compartecipe, mudita bhavana, tende a neutralizzare il risentimento e l'invidia. Chiaro, abbiamo detto che il nemico lontano è proprio la gelosia o l'invidia. Gelosia intesa non tanto come possesso dell'altro, quanto come invidia della gelosia dei suoi o delle sue dei suoi obiettivi, di ciò che ha raggiunto, insomma, anche delle sue cose a volte, no? Upekkha bhavana, l'equanimità, invece neutralizza, attenua l'indifferenza, questa forma che abbiamo chiamato anche gelosia, e anche quella che viene tradotta come neutralità apatica, che è molto simile a un cinismo, insomma, è quella forma del che si può, guardate che è quasi una malattia, ne soffro, secondo me è una malattia di questa società, che è stata tradotta anche come nichilismo. Sapete cos'è il nichilismo? Sento parlare, immagino. Deriva dal termine latino nihil, che vuol dire niente, ed è uno stato d'essere che sta catturando purtroppo, sta facendo ammalare intere generazioni che non vedono più futuro, non vedono più, non hanno più fiducia in nulla, e a volte ne hanno anche ben donde, insomma, visto come vanno le cose, ma questo le porta ad uno stato di prostrazione, che è praticamente questa apatia rispetto al mondo, e quindi diventare neutrali vuol dire che va bene tutto. E questo è uno stato che viene guarito nel tempo dalla pratica di Upekkha, quindi della saggezza, della equanimità. Bene, ci sono domande? Se avete domande fatele pure, ho messo tanta carne al fuoco, ma spero sia stata abbastanza chiara. Siamo in pieno. Ormai è alla portata, quindi si sente. Sì, il primo è non conoscere il concetto del karma, sì, vabbè, ma c'è una base di ignoranza e lasciamola perdere. Sì. Ma lì c'è proprio una base di odio, chiamiamolo, no? Desiderio di rivalsa. Sì, esattamente, avrai il tuo. Quello no, che hai fatto, ti ritorcerà contro. Ma ad esempio avrai quello che ti meriti, è un'affermazione su cui è bene riflettere, perché alla domanda potrebbe essere: sei certa di sapere ciò che si merita? Sì, no. Perché, bisogna avere una grande consapevolezza per sapere l'altro che cosa si merita. Quindi in effetti anche questo concetto, lasciando a parte tutta la questione sull'ignoranza del concetto del karma, ha a che fare proprio con questa situazione, con queste pratiche, cioè con quelli che sono i nostri atteggiamenti normali nei confronti delle altre persone. Sono normali, non sono normali, diciamo che sono diventati la normalità perché questo è il modo di interagire. Ma se di fondo c'è odio, rivalsa, cattiveria, oppure uno può anche pensare giusta vendetta, giusto, la chiamano giustizia, capite? Ma è vero, ma va tutto bene, non sto dicendo che provare queste emozioni è sbagliato, che non passi questo. Io sto dicendo solo, queste emozioni che ci portano a stare in una condizione prostrata, no? Di sofferenza, anche se magari celata, siamo sicuri che portarsene dietro per tutta una vita? Perché è bastato nominare una persona con cui avete avuto uno screzio e immediatamente si è contattata un'emozione negativa, immediatamente, sulla quale ci si può anche ridere su, possiamo anche dire va bene, insomma io l'ho superata questa cosa, ma se è scattata dentro questa emozione, per quanto tenue, vuol dire che è presente. Se è presente è una ferita, se è una ferita non è ancora stata risanata. Questo tipo di pratiche ci dicono questa è la via per risanarle completamente. Avevi aggiunto anche che l'inconscio le tiene in memoria e prima o dopo riemergono sotto un'altra forma. Certo. Qualcuno dice anche, probabilmente non è cresciuto, non è cresciuto con la persona e così via, e quindi deve riviverla o affinché possa risolverla, no? È questo. In soldoni sì, non vorrei andare sull'azione inconscia perché facciamo tutto un modulo su quella, però in soldoni sì, è come se noi avessimo nascosta una parte di noi che non è stata presa in considerazione, quella parte di noi però è stata ferita. Ma io guarda, scusatemi, io non la capisco questa cosa, veramente non la capisco, perché dico, cioè io ho 50 anni, perché devo crescere ancora per risolvere questa cosa? Posso anche vivere senza risolvere quella cosa? Perfetto, è una scelta. Per esempio. Sì, sì. Nessuno ti dice di no. Voglio dire, non è che sono bambine che devo imparare a... Benissimo. Sì, sì, io sono d'accordo con te. Però c'è un bagaglio inconscio da portarsi. E questo bagaglio inconscio è fatto di talenti, ma è fatto di ferite, ferite non sanate. Possiamo anche dire chi se ne frega e cerchiamo solo di puntare in alto. Benissimo, è una via. Non c'è nessun problema in questo, assolutamente. Che non, cioè non è che c'è un unico modo, ci sono tanti modi. Sappiamo che portarci un fardello di cose irrisolte ci rallenta sulla via che noi potremmo anche chiamare via spirituale. E tutte le tradizioni ce lo dicono, in un modo o in un altro ce lo dicono tutti, o attraverso i miti, o attraverso le fiabe, o attraverso i sogni, attraverso i simboli, attraverso le pratiche, i riti tribali, i riti sciamanici, tutti ci dicono più o meno la stessa cosa, liberati da quel fardello e poi la strada sarà più veloce. Puoi anche dire, io sta vita qua me ne frego, me la gioco alla prossima. Questa basta, la prossima quando arriva, ma certo, concordo, in pieno. Ecco, da parte queste domande, perplessità, qualcosa che non... dopo magari leggete gli articoli, sono articoli, non sono strumenti tecnici, perché strumenti tecnici adesso avete la registrazione, tutto quello che dovete sapere lo sapete. In caso, nei test, adesso per fortuna, non mi ricordo, sia della Salzberg che di Wallace, dovrei aver riportato anche Wallace, sì. Allora, in Wallace ci sono i quattro incommensurabili, è proprio un libro dedicato a quello, e la Salzberg, che ha scritto meravigliosi libri, è l'arte di evoluzionare della gioia. E quindi insomma qui trovate intanto uno spunto, io ho preso un pezzettino del libro che mi sembrava un po' più significativo e magari leggendolo vi dà qualche ispirazione. Ecco. Facciamo la pratica, però prima questo pezzettino qua ve lo voglio leggere, poi chiudiamo. Beh, se vi sono domande alzate pure la mano. Facciamo la pratica di mente stasera. Allora, il Buddha, quando diventò Buddha, vi ho già spiegato, non lo era, cominciò a raccogliere attorno a lui i primi monaci, la prima cerchia, diciamo. Secondo la leggenda, che divennero tutti maestri super famosi, secondo la leggenda, egli aveva mandato un gruppo di monaci a meditare in una foresta, viene anche per quello che mi hai chiesto tu, a meditare in una foresta abitata dagli spiriti degli alberi. Questi si irritarono per la presenza dei monaci e cercarono di scacciarli in tutti i modi, apparendo come visioni demoniache, con odori ripugnanti o rumori terribili e stridenti. Secondo la tradizione, i monaci si impaurirono e tornarono dal Buddha, chiedendogli di inviarli in un'altra foresta, per fare la loro pratica. Il Buddha invece rispose: ho deciso di rimandarvi nella stessa foresta, ma vi darò un'unica protezione di cui avete bisogno, ossia il primo insegnamento della meditazione di metta, la gioia compartecipe. Il Buddha incoraggiò i monaci non solamente a recitare le frasi di metta, ma anche a praticarla realmente. Come tutte le storie simili, anche questa ha un lieto fine. Si racconta che i monaci tornarono a praticare metta al punto che gli spiriti si calmarono, mossi dalla bellezza della forza dell'amore che aveva riempito l'intera foresta, e decisero di prendersi cura dei monaci e di servirli in tutto e per tutto. La morale dell'episodio è che una mente piena di paura può comunque essere penetrata dal pregio della gentilezza amorevole, e che, inoltre, una mente satura di gentilezza amorevole non può essere vinta dalla paura, anche se la paura sorgesse, non potrebbe mai sopraffare del tutto una mente colma di benevolenza. E questo ha a che fare con l'ultima cosa, e cioè che abbiamo visto anche nei due mesi di base, nella mente non possono sussistere due qualità contemporaneamente. Se riusciamo a mantenere la mente abitata dalla gioia compartecipe, dalla gentilezza amorevole, dalla compassione o dall'equanimità, non potrà instaurarsi, sopraggiungere un'emozione negativa o distruttiva, semplicemente perché non entra. Quindi mantenere a lungo un brahmavihara all'interno della mente ci potrà solo che fare bene. Ok, pratica. La pratica di metta è una pratica completamente guidata. Questa pratica poi la farete per tutta questa settimana, fino a quando non ci troveremo la prossima volta. Come abbiamo detto, la faremo verso noi stessi. E quindi le frasi che vi dirò saranno frasi varie, perché metta prende dentro un po' tutto, ma la faremo verso noi stessi. Ok? Bene. Raggiungiamo la nostra posizione di meditazione. Spengo anche la luce. Bene. Mettiamo a posto i vestiti in modo da vivere un po' di mobilità. La schiena è sufficientemente dritta. Gli occhi sono morbidamente chiusi, le mani sono in grembo sulle ginocchia. Come ci troviamo meglio? Facciamo qualche respiro più profondo. E poi piano piano, lentamente, cerchiamo di lasciare andare ogni tensione. Cerchiamo di lasciare andare tutti i pensieri, tutte le parole dette ora non hanno alcuna importanza. Cerchiamo solamente di stare a contatto con il nostro respiro, il nostro corpo. cerchiamo di curare bene l'espirazione. Quando espiriamo, cerchiamo di lasciare andare le tensioni. Quando espiro, sciolgo. Quando espiro, lascio andare. Cerco di ammorbidire il corpo, di lasciare andare le spalle. Se avverto distrazione, se la mente inizia a vagare, non è un problema. Con grande gentilezza la prendo e la riconduco al respiro e al corpo, cercando proprio di ammorbidire, di lasciare andare, di trovare un po' di pace, un po' di serenità in questa pratica. Ora che da un po' manteniamo il corpo in questa posizione, osserviamo il corpo, cercando all'occorrenza di sciogliere tensioni, di lasciare andare. Ora ascolterete delle frasi e cercherete di sentirle nel cuore, ripetendole mentalmente. Rimanete in ascolto di ciò che sorge mentre mentalmente dite queste frasi. Cercate di dirle a cuore aperto, cercando di nutrire le qualità più calde del vostro cuore e della vostra mente. Possa io essere in pace. Possa io essere in salute. Posso essere lontano da ogni pericolo. Possa io vivere felicemente. possiamo anche ripetere una sola di queste frasi, accoglierla, sentirla, farla nostra. Possa io essere in pace. Possa io essere in salute. Possa io essere lontano da ogni pericolo. Possa io vivere felicemente. Rimaniamo ancora un po' in silenzio, cercando di ascoltare anche una di queste frasi. Proviamo a sentire cosa provocano nel cuore. E lo facciamo fino a quando non vi richiamerò. Riprendiamo contatto con il nostro corpo, piccoli movimenti, fino a quando sentiamo di poter riaprire gli occhi. Facciamolo molto lentamente, senza sforzo. accendi una luce. Bene, facciamo un po' di feedback. Come sempre le regole del feedback sono: se si vuole si dice qualcosa della propria pratica, si condivide col gruppo qual è stata la qualità della propria pratica, cos'è stato il sentire queste frasi dentro, altrimenti si dice passo e si passa al collega a fianco. Cominciamo da qui. Queste frasi sono riuscite a tenere più a bada la mente, ecco, che proprio mi ha trasportato dai pensieri. Mi ha trasmesso calma, ecco, un po' la mente. Si è fatta, il suo peggio diretto si è fatta, ecco, però ecco, tra attenzione ai dolori. E questa frase sono riuscita a rimanere per più tempo centrato. Centrato. Ecco, che non diventi un mantra. Continuare a ripetere. Sì. A un certo punto aveva preso quella sì, tendenza. Ecco, evitare, com'è? Perché non stiamo facendo una meditazione mantrica, che ha tutt'altro valore, fatta in tutt'altro modo, ma qui cerchiamo di ascoltare ciò che accade dentro, perché il mantra perde la sua capacità, diventa solo un ripetere in maniera quasi vuota. Grazie. Voglio dire mille cose, ma cerco di essere concentrato sulla pace, diciamo, anche su quello che avevi detto prima, gli eventi che accadono. Rimaniamo sulla pratica. In connessione sia la teoria e la pratica che ho fatto adesso. Insomma, che effetto ha fatto, come si è sentito dentro queste parole? Sono state pacificanti oppure hanno mosso? Ma proprio l'armonia, poi anche l'espansione che senti nel gruppo, diciamo così. Quindi si possono usare anche, cioè puoi usarla anche nella pratica tua quotidiana, insomma. Sì. Bene. Grazie. Sì, sono parole che ho colto volentieri, benevolmente, sì, perché tendenzialmente sono sempre con le mani verso gli altri e tengo, cioè faccio poco per me stessa e quindi questo dono, diciamo, dovrei coltivarlo di più. Di più, sì. Abbiamo detto che iniziamo da noi proprio per creare o provare a creare questo equilibrio, questa pace, no? Sì. Poi anche gli altri, poi. Sì, esattamente. Mi è capitato in settimana, degli armi di notte con dei pensieri assurdi, angoscianti, e nella meditazione della mattina ho riportato più o meno questi pensieri e lì mi sono accorta, senza rendermene conto, dopo aver finito, avevo le lacrime. Ah, ecco. Probabilmente si è svuotato qualcosa sono rimasta così, quasi. Doveva succedere. Di solito perché si snoda, si scioglie qualche gruppo, diciamo così. Però i Brahma Vihara aiutano anche in questo, quindi se dovesse ricapitare usa questa frase, o una di queste frasi. Sì. Grazie. Grazie. Io passo. Passo. Allora, io ho fatto ancora queste pratiche con Federica Della Torre, che mi conosce. Certo. E mi sono sempre molto piaciuta, soprattutto la compassione. Il discorso della compassione che mi ha aiutato tantissimo proprio nella mia esperienza di vita. E quindi in questa pratica ho sentito proprio quello che sentivo ancora quando facevo questa Federica. È vero, proprio c'è un amplifica, come se si raggiungesse quella sensazione e la frase proprio fa da megafono, espande. No? Le espande. Certo, certo, certo. Se è questo vuol dire che abbiamo già imbroccato, se sorge dell'altro non importa, ci stiamo vicini, lo coltiviamo, cerchiamo di accoglierlo, ma se già siamo su quello vuol dire che abbiamo già in qualche maniera, non c'è nulla di giusto o sbagliato, ma siamo in quella condizione. Potrebbe essere che un'altra mattina ci svegliamo la stessa meditazione, magari perché abbiamo dei pensieri oppure degli impegni, oppure abbiamo litigato col compagno o la compagna il giorno prima, e quindi magari con quel tipo di qualità non è più raggiunta. No, no, non è che ci dobbiamo dire ecco sto sbagliando tutto, no, siamo in una condizione psichica un po' diversa, le qualità in quella mattina sono un po' diverse, ci stiamo un po', facciamo quello che possiamo fare e poi andiamo a lavorare dove andiamo. Però se come la condivisione adesso c'è questa amplificazione, espansione, stiamoci, godiamocela. Grazie. Essere in pace, diciamo. Sì, sì, per il benessere che, sì. Siccome tendenzialmente sono sempre preoccupata al benessere degli altri, sì, sì. Per condizioni non scelte, ma sì. Quindi questa cosa, diciamo, ha mosso dell'altro, diciamo. Sì, comunque fatica, sì. Nello stare, sì, sì. In questo tipo di pensiero che sì, sì, sì. Come abbiamo detto anche prima, nessun giudizio. Cambio oggetto. L'oggetto di meditazione non è più la frase che ci crea questa espansione, questo stato di benessere, ma è la cosa sorge da questo pensiero. Sorge, ad esempio, butto lì, inadeguatezza. Questa inadeguatezza è una parte di me che sta reagendo proprio a questa frase. Riesco a stare con questa inadeguatezza? Riesco a starci vicino? Riesco ad accogliere questa emozione che un pochino è pesante, che magari ha dei toni cupi? Ci provo? Ce la faccio? Magari no. Magari sono costretto a abbandonare la pratica. Ma il compito che io mi prenderei è quello di provare a starci. Perché in fondo la prima cosa che abbiamo detto stasera è la ricerca di un equilibrio interiore e di un'armonia interiore è essenziale, perché senza quella non riusciamo a portare l'armonia fuori. Tutto qui. Passo. Passo. Io non lo sento proprio potenti. Potenti. Normalmente faccio fatica a concedermi un me lo merito, ma queste frasi qui hanno proprio un eco. Certo. Perplessità è quando sarà ora di pensare di effetto agli altri, soprattutto. Io non me ne preoccuperei per ora. Cioè, stiamo in questa. Questo idea del proiettare, no, su pratiche che sono di là da venire. Cerchiamo armonia su questa. Si dovrebbe esercitare per un mese. Diciamo di sì, di sì. Noi facciamo una settimana, no? Okay. Questa settimana proviamo proprio a rimanere anche su una, sì. Posso io essere in pace, no? Posso ripeterle? Sì. Cos'è che non le fa diventare un mantra? Come faccio a capire che non diventa? Se diventa una frase vuota. Ah, no, devi sentirla, se la devi sentire. Bene. Sì. Ah, okay. Devi proprio sentire dentro di te. Che qualcosa muove, invece il mantra lavora sul timbro sonoro e poi lavora su altri piani che non sono cose che noi affrontiamo in questo percorso. Quindi tu la percepisci, la senti bene, okay. Possa io essere in pace, come mi sento? Sì. Possono sorgere espansioni, calore, luce, oppure inadeguatezza, ansia, non importa. Quello che sorge è ciò che sono in quel momento. E con quello che sono in quel momento sto. Sorge luce, sto nella luce. L'idea è piano piano che sorga la luce. Perché? perché più mi carico in qualche modo, più mi equilibro in quella condizione unitiva. Perché fa, ma perché dobbiamo coltivare le emozioni negative, positive, costruttive, cioè che quelle negative e distruttive? Perché le quelle, chiamiamolo così, tenebrose tendono a frammentarci, quelle luminose tendono a unificarci. L'ideale è quello di trovare un'unità prima dentro di noi e poi con gli altri. Quando si dice tutto è uno, no? Sono frasi che ormai hanno preso piede ovunque, tutto è uno. Ma che cosa vuol dire tutto è uno? Io sono qui, lui è lì, siamo tutti separati. Chiaro, questo è vero. Però interiormente riusciamo a creare un collegamento, a creare un'armonia per cui ci sentiamo, ad esempio, di condividere la sofferenza con gli altri, o di condividere la gioia con gli altri, o di condividere la gentilezza amorevole con gli altri. Ce lo sentiamo questo? Sì, a volte no, dipende con chi. Tutte queste discriminanti vanno bene, ma quello che ci dicono queste tradizioni fa, prima o poi arriveremo al punto per cui saremo uno con tutto. E questo uno con tutto, magari ora si intravede anche il percorso, no? Ecco. Quindi stiamo con la frase se la sentiamo. Se non la sentiamo più, perché è diventata una routine, o cambiamo frase o smettiamo proprio per un giorno, due, quello che è. E poi la riprendiamo. Perché è facile che la mente la faccia diventare una routine, che ci è comoda solo tanto per dirla. Evitiamo il tanto per dirla. Grazie. A me è sorto un piccolo dubbietto quando recitavo le frasi. Bene. Mi sono chiesto appunto se me lo meritassi, da pace. E poi non so perché, forse non c'è un perché, però mi sono visto, diciamo, la terza persona e mi sono visto in una maniera molto gentile, forse anche in maniera molto fortunata, e ho provato fortuna per la persona che vedevo, che ero io, la certo. Persona, e mi sono risposto, ho detto sì, se sono qui vuol dire che sì. Ecco, l'escamotage terza persona capita, okay. Se ci viene più comodo la usiamo, abbiamo detto che siamo agli inizi del cammino, usiamo tutto quello che c'è. E tutte le scamotage che ci vengono in mente e piano piano cerchiamo proprio di rivolgerla a noi, però se la rivolgiamo a una persona che siamo noi fuori può capitare, e se questo ci fa stare bene va bene, però piano piano proviamo e stiamo con quel dubbietto, cioè è sorto il dubbio ma non me lo merito, oppure ed è naturalissimo, cioè non siamo schizofrenici, non è che c'è in noi la tripla personalità e cominciamo a dialogare con noi stessi, finiamo in psichiatria, no? Se no così. Siamo semplicemente osservando una parte di noi che in quel momento dice, guarda che però non ti meriti di stare in pace, per mille motivi, motivi personali, relazionali, affettivi, sociali. Cosa vuol dire io sto in pace, il resto del mondo è in guerra, non devi stare in pace, capito? Cioè tutte queste cose che possono mettersi in moto. Se troviamo un modo per rivolgerci al noi stessi, al di là di noi stessi, e questo ci fa stare in armonia, usiamolo. Okay. Grazie a te. A me è sembrato di essere presente mentre vedevo le frasi, una cosa in particolare. Ho avuto la sensazione che o il cuore non le sentisse o io non sentissi la risposta, quindi in realtà ero presente, certo. Per dire, però era una cosa che un po' indifferente, sì, ho distanza, un certo distacco come sì. Se queste frasi non avessero un impatto, sì, giusto? O non fossero arrivate a destinazione. Sì. Sì, sì. O comunque io fossi sordo, non so. è un'ottima c'è un'ottima. Il mio punto è direi che Quella è un'ottima osservazione, quella dell'essere sordi. È un'assurdità non di orecchio, ma è un'assurdità chiaramente di altra natura. Come per tutte le altre pratiche, per tutte le altre testimonianze, semplicemente osserviamo questo stato d'essere. Non è sorta né repulsione né attaccamento. Non c'è stata né una reattività né una... c'è stato un distacco, che però non mi ha portato a vivere una sensazione profonda, diciamo così. Insistiamo, proviamo a rifarlo, oppure proviamo a farlo verso una persona con cui abbiamo un bel rapporto, in questo caso. Perché può darsi che l'ostacolo in questo caso sia dentro di noi, non fuori. Cioè, se in noi non c'è questo collegamento diretto, non c'è questa apertura, nessun problema. Proviamo a rivolgere una persona con cui, a cui vogliamo veramente tanto bene. Possa tu essere in pace, possa tu essere in salute. Magari qui si apre un po' di più, ok? Fai qualche tentativo questa settimana. Sempre verso di te, ma prova anche verso un altro. O un'altra. Grazie a te. Ma poi passo a questa amico che oggi ho provato una gioia grande per una cosa mia e quindi ho detto mi merito tutta la pace che devo avere oggi e quindi me la merito tutta. Certo, quindi anche solo dirla la frase c'è stata grande apertura, insomma. Grazie. Anche per me invece le frasi erano un po' distaccate, sì. Cioè, quindi sentivo il respiro, cercavo di... sì, le dicevo, ma quindi adesso mi sono detto che però la domani mattina... Certo, certo. Ecco, chi ha la fortuna di avere un benefattore, insomma, spesso capita di avere un benefattore, chi ha addirittura la fortuna di avere un maestro spirituale, si deve baciare le manine, l'ho detto prima, vivo, solo vivi, sì. No? Ecco, è importante questo. Non rivolgetevi a persone morte. Persone morte lasciatevi lì dove sono. Mi è venuto sto dubbio. E si rivolge, specie se è un maestro spirituale, solo a persone vive. Persone morte ci sono altre pratiche, non lasciatevi in pace. Sì, tipo la mamma. Sì, no, no. Persone che ci sono, quindi benefattori. Sarebbe meglio evitare i familiari, ma se, insomma, anche se è una mamma o una persona vicina di parentela va benissimo, non c'è nessun problema. Quindi anche un benefattore potrebbe andare bene, cioè che ha, di solito la persona amica o il benefattore hanno un canale già aperto per tanti motivi, no? Ringraziamento, di fiducia, di amore, di pace, e quindi è più facile che si possa provare a rivolgere queste frasi. Come insomma, io farei dei tentativi, ecco, verso di sé e verso questa persona. Perché magari rivolgendoci all'esterno potrebbe essere che poi. Poi si apre anche dentro. Sì, poi si apre anche dentro. Nel senso che si apre, c'è un'apertura di cuore quando la rivolgiamo a qualcuno a cui vogliamo già bene. E questa apertura di cuore, poi, se io la uso per me, la sento. Però ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ma insomma capita, non demordiamo. E in ogni caso, ecco altra cosa importante, che non sorga il giudizio. Cioè, no, se sorge il giudizio non facciamoci problemi. Cioè, ecco, non sono capace, ecco, sono un pezzo di legno perché a me non capita niente, e tutti invece dicono, ah, il cuore che bello, caldo, cioè, no, nulla di tutto questo. Come sempre, stiamo sempre nell'osservazione. Il metodo che abbiamo appreso non è che cambia perché stiamo cambiando pratica, è tutto uguale, molto uguale, nel senso che stiamo con questo nostro, in questo caso